A proposito della storicità della risurrezione, abbiamo analizzato nelle precedenti chiacchierate due testi molto diversi fra di loro. Il testo di Giovanni, riguardante la disposizione dei lini sepolcrali, e poi il testo di Matteo, riguardante le guardie al sepolcro. Ciò che accomuna i due testi è la fede nella risurrezione, e a nostro avviso sono due documenti estremi per il problema della storicità della risurrezione, e per questo li abbiamo proposti. Tra di loro si situano tutti gli altri racconti della risurrezione che invitiamo eventualmente a leggere, e qualora si volessero leggere si dovrebbero mettere in risalto le loro convergenze, che sono molte, ma anche le loro divergenze e le loro contraddizioni. Spero che questa affermazione non scandalizzi troppo l'ascoltatore, perché di fatto nei Vangeli canonici Matteo, Marco, Luca e Giovanni ci sono anche delle contraddizioni, e abbastanza notevoli. Per esempio, nei quattro racconti, per quello che riguarda gli avvenimenti alla tomba, ci sono le seguenti contraddizioni. Il tempo: due evangelisti dicono che Maria e le altre donne sono andate al sepolcro quando il sole era già alto, e due evangelisti dicono che è andata Maria Maddalena con le altre donne quando c'era ancora buio. Poi c'è divergenza sulle donne. Marco ne mette tre, Luca ne mette almeno cinque, Matteo ne mette due, Giovanni ne mette una, Maria Maddalena, ma poi c'è un plurale, non sappiamo, che fa pensare che le donne siano più d'una. Conclusione: l'unico nome comune a tutti e quattro i Vangeli è Maria Maddalena. Poi, che ci vanno a fare queste donne al sepolcro? I due evangelisti più vicini al pensiero ebraico, cioè Matteo e Giovanni, sapendo che il sepolcro non si può più riaprire, dicono che le donne vanno al sepolcro a vedere il sepolcro, mentre Marco e Luca, che non sono legati alla tradizione ebraica, dicono che le donne vanno a finire la sepoltura, a ungere il cadavere, cosa difficile da accettare nella tradizione ebraica. Poi lì alle tomba vedono dei messaggeri, degli uomini, degli angeli. Non si riesce a capire dai testi se sono uno o se sono due, se sono giovinetti, se sono uomini, se è un angelo, se sono seduti, se sono in piedi, se sono dentro, se sono fuori. Ma soprattutto, la cosa che stupisce di più in Matteo e Marco è che questi messaggeri o giovinetti dicano agli apostoli, dicono alle donne di dire agli apostoli di andare in Galilea, là vedranno Gesù. Dunque, secondo questi due documenti, le apparizioni di Gesù agli apostoli devono avvenire solo in Galilea, e questo contraddice con i dati di Luca e di Giovanni capitolo 20, che mettono le apparizioni di Gesù solo esclusivamente in Gerusalemme. Giovanni poi, capitolo 21, è un documento un po' tardivo, scritto da un non testimone oculare. Allora, per correggere questo errore o per cercare di aggiustare la situazione, mette anche un'apparizione in Galilea. E poi c'è divergenza sul fatto che Marco dice che le donne hanno taciuto, mentre Matteo dice che le donne hanno parlato, così pure anche Luca accenna che le donne hanno parlato. Poi c'è l'episodio dei discepoli di Emmaus, raccontato soltanto in Luca. Poi c'è un accenno anche a questo episodio in Marco, ma sembra un'aggiunta tardiva. Ancora, per quello che riguarda le apparizioni, c'è divergenza, ho già detto quella grossa. Secondo due evangelisti Gesù appare solo in Galilea, cioè a nord della Palestina, e secondo altri due evangelisti, Luca e Giovanni, appare solo in Gerusalemme. Come conciliare questa sembra evidente contraddizione? Ecco, queste sono le principali divergenze e contraddizioni che abbiamo riscontrato, ma forse un lettore attento ne potrà trovare ancora altre. Ora, queste divergenze e contraddizioni non sono state notate da noi adesso, solo ora, sono già state notate nei secoli. Qualcuno forse dirà, ma e perché di solito i preti di queste cose non parlano? Ma sinceramente non lo so, forse non vorranno dare troppe crisi di fede agli loro fedeli, ma noi crediamo che una vera fede passi anche attraverso delle crisi e per questo vogliamo dare questi elementi che potrebbero anche mettere in crisi la fede. Vabbè, aspettate però a concludere dopo che avremo analizzato tutto. Ora, un documento antico, pur interessante, si è già posto il problema di queste divergenze e contraddizioni e ha cercato, a sua maniera, di risolvere il problema. Questo documento è il Vangelo di Pietro. Comunemente noi aggiungiamo anche la parola apocrifo, che vuol dire segreto, nascosto, ma che vuol dire anche non accolto tra i libri ufficiali. Questo documento era citato, era conosciuto solo per qualche piccola citazione indiretta. Ma nell'inverno del 1886, nell'Alto Egitto, in un paese che oggi si chiama Khmin, in antico si chiamava Panopolis, nella tomba di un monaco fu trovata una pergamena dell'VIII-IX secolo, scritta in greco, che conteneva appunto questo Vangelo di Pietro. Gli studiosi l'hanno analizzato, è un documento antico, la data precisa non si può sapere, però è citato già attorno agli anni 187-188, per cui comunemente gli studiosi lo datano attorno agli anni 150 o qualcuno anche un po' prima. Il luogo d'origine di questo documento è la Siria, probabilmente un ambiente gnostico della Siria, e quest'autore, ignoto autore, per dare più credito alle sue idee, lo ha attribuito niente meno che a Pietro. Ma noi sappiamo benissimo dalle testimonianze di Eusebio di Cesarea che era giudicato da scartare, cioè non di Pietro, e gli antichi lo sapevano benissimo, lo sapeva il vescovo di Roxos, che quando l'ha letto ha detto: l'ho trovato così diverso da quello che io ho sempre sentito dire sul cristianesimo che non può essere di Pietro, e perciò vi proibisco di leggere questo Vangelo. Così il vescovo di Roxos scriveva ai suoi fedeli verso gli anni 180. Ora leggiamolo, e mentre lo leggiamo facciamo il confronto coi Vangeli canonici. Il documento è scritto in greco, noi leggeremo la sua traduzione letterale fatta da me. Si trovava poi là Giuseppe, l'amico di Pilato e del Signore. Là è il luogo dove crocifiggevano Gesù, cioè il Calvario. E vedendo che stavano per crocifiggerlo, andò da Pilato e chiese il corpo del Signore per la sepoltura. Noterete l'insistenza sulla parola Signore data a Gesù, termine già divino, era un termine che il Nuovo Testamento usava pochissimo, se non in San Paolo, ma lo usano con la fede del dopo già. E allora, siccome secondo i Vangeli canonici Giuseppe va a chiedere il cadavere solo a morte di Gesù avvenuta, quest'autore si è accorto che c'erano un po' troppi avvenimenti dalla morte di Gesù fino al momento della sepoltura, tenendo conto che stava per cominciare il sabato e che di sabato bisognava essere già a casa, il sabato comincia al tramonto. E allora cosa fa? Manda Giuseppe molto prima a chiedere il cadavere a Pilato. Pilato, avendo mandato qualcuno da Erode, chiese il corpo di lui. Strano questo riferimento a Erode. Ed Erode disse: amico Pilato, se anche nessuno lo avesse chiesto, noi lo avremmo seppellito, poiché già sorge il sabato. Vi ricordo che il sabato cominciava la sera del venerdì. Sta scritto infatti nella legge che che il sole non tramonti su di un ucciso. Questa informazione ci è data anche in Luca 23,54 e la cosa sembra abbastanza logica, in quanto Erode era idumeo, non era ebreo, ma comandava sugli ebrei. Allora, per farsi ben volere dagli ebrei, era diventato osservantissimo della legge di Mosè. E la legge di Mosè dice che non tramonti il sole su un ucciso. Salto alcuni versetti e poi continua. Estrassero allora i chiodi dalle mani del Signore e lo posero a terra. Si scosse tutta la terra e vi fu un timore grande. Allora risplendette il sole e ci si accorse che era l'ora nona. Furono contenti i giudei e diedero a Giuseppe il corpo di lui affinché lo seppellisse, dal momento che aveva visto tutte le cose buone che egli aveva fatto. E avendo preso dunque il Signore, lo lavò. Se è vero questo particolare, la sindone di Torino è sicuramente un falso. Ora, nessuno dei Vangeli canonici dice che Giuseppe lavò il Signore, anche perché il lavarlo implicava molto tempo e il tempo non era così lungo a disposizione. Lo avvolse in un lenzuolo e lo portò nel proprio sepolcro, chiamato Orto di Giuseppe. Farei notare che col passare del tempo i particolari crescono. Mentre i Vangeli canonici dicono che fu messo in un orto, qui dice anche il nome Orto di Giuseppe. Gli ebrei, gli anziani e i sacerdoti compresero allora il grande male fatto a se stessi e cominciarono a lamentarsi battendosi il petto e a dire: guai ai nostri peccati, il giudizio e la fine di Gerusalemme sono ormai vicini. Io ed i miei amici eravamo nella tristezza e con l'animo ferito ci nascondevamo. Eravamo infatti ricercati da loro come malfattori e come coloro che volevano incendiare il Tempio. A motivo di tutte queste cose digiunavamo e sedevamo lamentandoci e piangendo notte e giorno, sino al sabato. Essendosi riuniti poi tra di loro gli scribi e i farisei e gli anziani, avendo sentito che tutto il popolo mormorava e si percuoteva il petto dicendo che, se alla sua morte sono avvenuti questi grandissimi segni, vedete quanto è giusto. Questi segni sono quelli che raccontano i Vangeli canonici, il sole che si oscura, la terra che trema, eccetera, eccetera. Ebbero paura gli anziani e andarono da Pilato pregandole dicendo: dacci dei soldati affinché custodiamo il suo sepolcro per 3 giorni, perché i discepoli suoi, venendo, non lo rubino, e il popolo pensi che è risorto dai morti e non ci facciano del male. Secondo il Vangelo di Matteo, che è l'unico che parla di questo particolare, i sommi sacerdoti e i capi sono andati da Pilato il sabato mattina, non il venerdì sera. Quest'autore si è accorto che se i capi vanno il sabato mattina, i cristiani hanno avuto a loro disposizione tutta la notte del venerdì, tra il venerdì e il sabato mattina, per poter rubare il cadavere. E allora vi accorgerete che in nessun momento lascerà il sepolcro in balia soltanto dei cristiani. Sempre assieme ai cristiani ci mette i capi ebrei e anche i romani. Qui poi è evidente del testo la mala fede dei capi ebrei. Pilato allora diede loro il centurione Petronio. Viene fuori anche il nome. Vi ho detto che col passare del tempo i particolari crescono. Per di più, questo nome Petronio è chiaramente un nome romano. Faceva servizio allora in Palestina la corte italica. Erano gli italiani che facevano la guardia. Diede loro il centurione Petronio con dei soldati per custodire il sepolcro. E con loro andarono gli anziani e gli scribi alla tomba. Ci vanno tutti. Se ricordate, nel testo di Matteo non era chiaro se le guardie erano romane o ebree. Qui invece quest'autore risolve il problema dicendo: sono guardie romane, si chiama Petronio il centurione, quindi un nome evidentemente latino. E avendo rotolato una grande pietra, con il centurione e i soldati tutti insieme quanti erano là, la misero sull'ingresso della tomba. Secondo i Vangeli canonici, a chiudere la tomba sono stati i cristiani. Secondo questo Vangelo sono stati gli ebrei e i romani. E misero 7 sigilli, totalmente sigillato. E avendo piantato colà una tenda, facevano la guardia. C'è anche, come vedete, la tenda del comando. Sorgendo poi la mattina del sabato, andò la folla da Gerusalemme e dai dintorni a vedere la tomba sigillata. E già, è proprio sigillata. Vedete, vuol fare rendere più evidente il miracolo della risurrezione. Strano però che gli ebrei possano uscire di città di sabato e il sepolcro era fuori della città. Poi parte il versetto 35. La notte nella quale sorge il giorno del Signore. Giorno del Signore è la domenica. Questo è un indizio che questo documento sia già un po' tardivo, perché quel giorno gli ebrei lo chiamavano il primo della settimana. Sono stati i cristiani a chiamarlo giorno del Signore. Mentre i soldati facevano la guardia a turni di due, un grande rumore si fece nel cielo e videro i cieli aperti e due uomini che scendevano di là con molto splendore e si avvicinavano al sepolcro. Avevo già fatto notare che qui, a proposito di questi angeli o uomini che siano, c'era divergenza, perché Marco parla di un giovinetto, Luca parla di due uomini, Matteo parla un angelo del Signore che scende dal cielo e Giovanni parla di due messaggeri o angeli o giovani. Allora non c'è accordo e questo autore si sforzerà di metterli d'accordo tutti e vedrete che ci riesce. Per adesso cominciamo a notare che sono due uomini che scendono dal cielo, quindi sono angeli, e si avvicinano al sepolcro. Il testo continua. E quella pietra che era stata spinta contro l'ingresso, rotolatasi da sola, bello, si ritirò da una parte e il sepolcro si aprì e i due giovinetti entrarono. Erano due uomini come voleva Luca, sono diventati due giovinetti come vuole Giovanni. Vedendo dunque, quei soldati svegliarono il centurione e gli anziani. Erano là infatti anche loro a fare la guardia, ci sono proprio tutti. E mentre essi raccontavano le cose che avevano visto, di nuovo vedono tre uomini. Indovinate chi è il terzo? Paghi due, compri tre, qui evidentemente. Vedono tre uomini che escono dal sepolcro. Come voi vedete, qui vi sta raccontando la risurrezione. E i due che sostengono l'uno e una croce che li seguiva. Bello vedere questa croce che, saltellando magari, insegue i tre. E la testa dei due che arrivava fino al cielo. È un modo per dire sono angeli, perché il cielo per loro era una lastra su cui camminava Dio. Quella invece di colui che era portato da loro superava i cieli. Questo è un modo per dire che Gesù, il portato da loro, è Dio, perché arriva al di sopra dei cieli, cioè entra nel mondo del divino. E sentirono una voce dai cieli, questa è chiaramente la voce di Dio, che diceva: hai annunciato ai morti? E una voce si udì dalla croce che sì. Ecco, qui c'è una tradizione antica che direbbe che Gesù in quei tre giorni, in realtà non sono tre giorni perché Gesù è morto il venerdì e hanno visto, l'ha trovato la tomba vuota la domenica, quindi neanche un giorno e mezzo, ma secondo gli antichi si contava sempre la data di partenza e la data di arrivo, quindi sono tre giorni. E in questi tre giorni Gesù cosa ha fatto? Risposta: è sceso sottoterra. Perché? Ma perché mica potete mandare all'inferno tutti i giusti dell'Antico Testamento? Per esempio Abramo, che è amico di Dio, avete il coraggio di mandarlo all'inferno? Che Dio mandi all'inferno i suoi amici, ma che maniera di fare? E allora gli antichi avevano pensato, i primi cristiani avevano pensato, che i giusti dell'Antico Testamento erano morti e quindi erano andati sottoterra, perché quando uno muore viene normalmente seppellito sottoterra. Ma non erano andati all'inferno, bensì in sala d'aspetto, noi diremmo oggi, perché se ricordate, dopo il peccato di Adamo, il paradiso era stato chiuso, quindi nessuno più poteva entrare dentro, solo Gesù Cristo ha il potere di sfondare le porte e di portare i giusti in paradiso. E allora, secondo questa tradizione, Gesù è andato sottoterra, ha predicato ai morti prima di lui e quelli che hanno creduto a lui li ha portati con sé in paradiso. Questo è il modo che hanno gli ortodossi di rappresentare la risurrezione. Noi occidentali, nel rappresentare la risurrezione, mettiamo un sepolcro aperto, le guardie lì in un angolo che dormono, Gesù che, glorioso e trionfante, esce dal sepolcro tutto luminoso, portando una bandiera, magari la bandiera bianco-gialla del Vaticano. Ora, gli ortodossi non rappresentano normalmente così la risurrezione. Invece rappresentano Gesù in cielo, con ai suoi piedi delle porte sfondate, ha sfondato le porte del paradiso, ci sono dei lucchetti rotti, e Gesù tira su con la mano sinistra e con la mano destra Adamo ed Eva. E spesse volte dietro Adamo e dietro Eva c'è un grappolo di uomini e un grappolo di donne. Questo è il modo che usano gli orientali per esprimere la risurrezione. Gesù, risorgendo, ha salvato tutti gli antenati, quelli prima di lui, a partire da Adamo ed Eva. Ed è curioso che questa voce dal cielo, che è la voce di Dio, chieda: hai predicato ai morti? E la croce che risponde: è già, perché secondo il pensiero già dell'evangelista Giovanni, risurrezione e croce sono le due facce della stessa medaglia. Non potete separare la croce e la risurrezione. Per questo quest'autore del Vangelo apocrifo di Pietro presenta la risurrezione di Gesù con la croce sempre accanto, ed è la croce, secondo la teologia antica, che salva. Continuando il testo: discussero dunque quelli tra di loro per andarsene e far sapere queste cose a Pilato. E mentre ancora essi stavano decidendo, apparvero di nuovo i cieli aperti, ed un uomo che scendeva ed entrava nella tomba. Se avete notato, a proposito di questi angeli, aveva messo d'accordo Luca, che parlava di due uomini, Giovanni, che parla di due giovinetti, e adesso ha messo d'accordo anche Matteo, che parla di un angelo del Signore che scende dal cielo. Eccolo qua. C'è ancora da soddisfare Marco, che parla di un giovinetto, ma vedremo che ci sarà anche questo. Avendo visto queste cose, quelli che erano insieme al centurione di notte corsero da Pilato, e qui c'è una contraddizione, perché secondo il Vangelo di Matteo le guardie sono andate prima dai sommi sacerdoti, ma qui non avevano ragione di andare dai sommi sacerdoti, perché i sommi sacerdoti erano già lì, avendo lasciato il sepolcro che custodivano. Ecco allora perché, quando le donne sono arrivate, non c'erano più persone al sepolcro, perché erano andate via. E raccontarono tutte le cose che videro, essendo molto agitati e dicendo: veramente era figlio di Dio. Quest'autore fa far la professione di fede niente meno che ai soldati romani. Un'affermazione simile si trova in Matteo capitolo 28, 11, quando il centurione vede, addetto alla crocifissione, vede che Gesù, come Gesù era morto, dice veramente costui era figlio di Dio. Anzi, ho commesso un errore, non era Matteo 28, 11, ma mi pare sia Marco 15, 39. Rispondendo, Pilato disse: io sono innocente del sangue del figlio di Dio, vedetevela voi. Pilato, è sempre coerente con se stesso, se ne lava un'altra volta le mani, però nel contempo fa la sua professione di fede: anche per lui Gesù è figlio di Dio. Quindi, avvicinatisi tutti, lo pregavano e lo supplicavano di ordinare al centurione e ai soldati di non dire a nessuno le cose che avevano visto. Ecco perché i centurioni e i soldati hanno rispettato l'ordine, perché Pilato gliel'ha ordinato. Ci conviene, infatti, dissero, essere responsabili di un grandissimo peccato di fronte al Dio e non cadere nelle mani del popolo dei giudei ed essere lapidati. Evidentemente qui è chiara la mala fede dei capi ebrei. Ordinò dunque Pilato al centurione e ai soldati di non dire niente. E così la cosa non si è saputa, ma i primi testimoni della risurrezione, secondo quest'autore, sarebbero i soldati romani e niente meno che i capi ebrei. Il mattino del giorno del Signore, continua il testo, Maria la Maddalena, discepola del Signore, che, temendo a causa dei giudei, poiché ardevano dall'ira, non aveva fatto sul sepolcro del Signore ciò che erano solite far le donne sui loro cari morti, avendo preso con lei le amiche, vedete come se la cava, siccome nei Vangeli canonici non era chiaro se le donne erano 2, 3, 4, 5, quante erano, quest'autore dice: avendo preso con lei le amiche, andò al sepolcro dove era stato deposto. E temevano che le vedessero i giudei e dicevano: se anche in quel giorno in cui è stato crocifisso non abbiamo potuto piangere e batterci il petto, almeno ora faremo queste cose sul suo sepolcro. Ma chi ci rotolerà la pietra posta contro l'entrata del sepolcro, affinché entrate ci sediamo vicino a lui e facciamo le cose dovute? Queste affermazioni si trovano pari pari nel Vangelo secondo Marco al capitolo 16, versetto 4. Soprattutto il particolare che viene adesso: la pietra infatti era grande, così dice anche Marco, e temiamo che qualcuno ci veda, e se non possiamo, almeno mettiamo sull'ingresso le cose che abbiamo portato in suo ricordo, e piangeremo e ci batteremo il petto finché andremo a casa nostra. Vi ho già detto, è strana questa idea di poter riaprire una tomba, perché secondo la mentalità ebraica il cadavere, dopo che è stato messo nella tomba, non si può più rivedere, la tomba non si può più aprire perché il cadavere è impuro, il cadavere contamina. Ancora oggi gli ebrei osservanti vanno a chiudere di notte gli scavi archeologici che gli archeologi fanno di giorno, perché negli scavi archeologici si sa che a volte si trovano delle tombe e le tombe rendono impuri. Qualche anno fa gli ebrei osservanti si sono ribellati alla decisione del governo di fare una strada che collegava Gerusalemme con Hebron, perché quella strada passava su due cimiteri antichi, e allora loro, proprio per questo principio, non avrebbero potuto percorrere questa strada, e il governo ha dovuto cedere e ha fatto la strada da un'altra parte. Questo per dire come il cadavere rende impuri, quindi è inimmaginabile che abbiano riaperto, che fosse possibile riaprire la tomba. Il testo però continua: e arrivate, trovarono il sepolcro aperto, e qui si ricollega a quello che era avvenuto prima, cioè che la pietra era rotolata da sola, e avvicinatesi si chinarono dentro e vedono lì un giovinetto, eccolo, ci mancava ancora quello, è il giovinetto di cui parlava Marco, e così come voi vedete è riuscito a mettere d'accordo Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Questo giovinetto com'è? Seduto in mezzo al sepolcro. Allora erano in piedi, erano fuori, erano dentro, erano seduti, c'è tutto. Bello e rivestito di una veste risplendente, che disse loro: perché siete venute? Chi cercate? Forse quel crocifisso? È risorto e se n'è andato. Se poi non credete, chinatevi e vedete il luogo dove giaceva. Non c'è. È risorto, infatti, e se n'è andato là da dove era stato mandato. Questa frase che ho letto si trova in modo molto simile anche in Marco 16,6 e in Matteo 28,6. Allora le donne spaventate fuggirono. Vi faccio notare che Matteo e Marco dicono che il messaggero, il giovinetto, hanno detto alle donne: dite ai discepoli che vadano in Galilea, là vedranno Gesù. Siccome quest'autore ha poi difficoltà a mettere insieme Galilea e Giudea, le apparizioni in Galilea, nord della Palestina, Giudea, cioè Gerusalemme, sud della Palestina, fa che non mettere nulla, così poi potrà mettere le apparizioni dove vorrà, con l'unico particolare però che la parte di questo libro che racconta le apparizioni non ci è giunta, perché probabilmente in questo libro si sono rovinati uno o due fogli conclusivi. Il testo continua. Era l'ultimo giorno degli azimi. La festa degli azimi dura 7 giorni, qui siamo all'ultimo giorno. Molti se ne andavano via e ritornavano alle proprie case. La festa era finita. La festa di Pasqua per gli ebrei dura 1 settimana. Ma noi, i 12 apostoli del Signore, piangevamo e ci rattristavamo, ognuno pieno di tristezza per quanto era avvenuto, se ne andò a casa. Evidentemente qui non avevano ancora avuto le apparizioni di Gesù. Io invece, Simon Pietro, vedete l'autore che si immagina di essere Simone, e mio fratello Andrea, prendemmo le nostre reti, ci recammo al mare. Con noi c'era Levi, figlio d'Alfeo, che il Signore, e qui sembra che voglia dire che il Signore aveva chiamato dal banco degli esattori dell'imposta, ma il testo finisce qui. Purtroppo è guasto, quindi non siamo in grado di capire come sia riuscito poi a mettere d'accordo le apparizioni in Galilea con le apparizioni in Gerusalemme. Ho voluto leggere questo testo perché vi rendiate conto che probabilmente hanno fatto bene i primi cristiani a scartare questo documento, a non accoglierlo fra i libri ufficiali, perché sembrerebbe un misto di ingenuità, un tentativo un po' sempliciotto di mettere d'accordo i Vangeli canonici. Lui stesso, quest'autore, si è accorto che i Vangeli canonici avevano delle divergenze, delle contraddizioni, e ha fatto in modo di eliminarle fin dove gli era possibile. Poi, come voi vedete, esalta molto il miracoloso. Di fronte alla sobrietà dei Vangeli canonici, che pur volendovi far credere la risurrezione, non ve la descrivono mai, quest'autore vi descrive esattamente la risurrezione, non nei particolari di cosa è successo nel sepolcro, ma almeno nel fatto che i due angeli scendono e portano fuori un terzo che è Gesù. E inoltre quest'autore cerca e vuol provare la mala fede degli ebrei che negano la risurrezione. Dunque girava già ai suoi tempi la voce che i cristiani avevano rubato il cadavere, e quest'autore risponde: ma come abbiamo potuto noi rubare il cadavere se sempre alla tomba ci siete stati anche voi? Se voi ebrei l'avete seppellito, se voi coi soldati romani avete sigillato la pietra, dunque noi non abbiamo fatto niente. E allora come fate a dire che noi abbiamo rubato il cadavere? E poi non solo, ma voi avete visto niente meno che la risurrezione, e a questo punto dite che noi abbiamo rubato il cadavere. Ma non è possibile, dunque siete in mala fede. Infine, quest'autore cerca di giustificare alcune tesi teologiche, per esempio quella che la croce e la risurrezione sono le due facce della stessa medaglia, si mettono tutte insieme, sottolinea qua e là che Gesù non ha un corpo, è uno spirito, sottolinea l'importanza fisica della croce come oggetto e non come simbolo. Ecco, per queste ragioni, tutto sommato, ho detto, hanno fatto bene i cristiani a scartare questo documento. E tuttavia è pur sempre un documento. Non è escluso che qualche cosa di vero ci sia anche in questo documento, ma è talmente difficile riuscire a separare il vero dal teologico o dal fantasioso o dal costruito che è meglio rifiutarlo come documento storico. Tuttavia è un documento interessante perché dice un po' la fede semplice di alcune comunità, probabilmente ho detto le comunità della Siria. E con ciò abbiamo concluso questa veloce analisi dei documenti del Nuovo Testamento e dintorni dei documenti dei primo e del secondo secolo che parlano della risurrezione. L'invito mio è che con questo metodo di lettura adesso prendiate voi in mano questi testi e pazientemente ve li analizziate, con un doppio intento, un doppio scopo. Primo, capire esattamente quello che l'autore sta dicendo, cioè capire il testo scritto. Con le osservazioni che abbiamo fatto, credo che siate ormai in grado di fare una lettura vostra, tranquilla, serena. Secondo intento, chiedervi, ma quello che gli autori stanno scrivendo sarà veramente storia, o è una illusione loro, o è una invenzione loro creata magari in mala fede? Ecco il problema che vi dovete porre, che ci dobbiamo porre, per arrivare a porre poi con chiarezza il problema dell'atto di fede. Ma prima di farvi un'idea voi, certamente leggendo vi farete già un'idea, ma non abbiate fretta di concludere. Prima di farvi dunque, di vedere qual è la vostra idea, è bene che noi analizziamo le risposte che degli studiosi hanno dato lungo i secoli a questi problemi che ora abbiamo posto, perché non è la prima volta che questi Vangeli vengono letti e interpretati in questa maniera. E allora prima di noi c'è tanta gente che ha analizzato questi testi e ha dato un'interpretazione. Prima di arrivare alla nostra personale interpretazione, sembra che sia saggio sentire cosa hanno detto quelli prima di noi, quali interpretazioni hanno proposto, e noi cercheremo di essere il più oggettivo possibile nel esporre tutte queste interpretazioni, almeno nelle loro grandi linee. Con ciò abbiamo finito questa analisi e vi rimando alle prossime conversazioni. Grazie della vostra pazienza.